Visto? No, ma io so. Scusate, prima di cominciare la lezione di Cherry, volevo fare il punto della situazione. Intanto c'è qualcuno che non mi sembra convinto dello strumento che ha in mano. Angela, cos'è? Paura di non riuscire? Ah no, io sono convintissima. Anch'io. Ho scoperto delle cose che non sapevo già alla prima lezione. Visto? E pensare che abbiamo appena cominciato. Per esempio l'accordatura. Io avevo imparato da me, ma non veniva mai così bene. Senti. Bravo Marco. Beh, mi sembra perfetta. Io non sono sicuro. State bravi ragazzi, su su, lasciatelo dire. Qual è il dubbio, Bernardo? Ecco, io non credo che la chitarra sia uno strumento completo. Beh, permettimi di non essere d'accordo con te. Oltre che uno strumento completo, la chitarra serve a mille usi. Per esempio? È noto a tutti che la chitarra fa ritmo e quindi fa ballare. Poi fa cantare. La la la la la la la la la. La chitarra va bene in casa, al mare, in montagna, a piedi o in automobile. A condizione che chi la suona non guidi. La chitarra non inquina, è romantica. Ma è anche moderna. La chitarra è buona. All'occorrenza è anche cattiva. Aio! Buoni, la chitarra è facile. Difficile. La chitarra è questo e mille altre cose, ma una soprattutto. Aiuta la fantasia e ci fa viaggiare in tutto il mondo, partendo dalla nostra base anche senza provviste. Ed ora c'è la prima lezione di Franco Cerri. Partiamo dal presupposto che la chitarra sia già stata accordata come si conviene, dopo aver seguito le indicazioni date all'inizio. Ecco, mi permetto di insistere su questo principio che serve anche ad abituare l'orecchio. Lo strumento ben accordato faciliterà la collaborazione anche con altri musicisti. Pertanto, l'accordatura della chitarra è da ritenersi fondamentale. Ed ecco il primo esercizio di Franco Cerri per chitarra a plettro. Accorde vuote con la sola mano destra. Una pennata in giù è indicata con il pi greco e una in su è indicata con la V, da eseguire lentamente e ripetutamente sulle sei corde, cercando di non appoggiare la mano sulla cassa. Comunque noi non vi vediamo, eh? Ora vi daremo una nota lunga del valore di 4/4 e 4 note brevi del valore di 1/4 ciascuna. La prima pennata in giù, le seguenti alternando le pennate in giù e in su. Attenzione al ritmo. 1, 2, 3, 4, mi. Giù, su. Giù, su, la. Giù, su, re. Proseguite l'esercizio. Ora ridiscendiamo verso il basso. Ora vi preghiamo di ripetere l'esercizio per vostro conto. Potete anche tornare indietro con la cassetta e riprendere dal discorso giusto. Vi invitiamo a controllare l'accordatura. Siate pazienti. Ora ecco l'esempio numero 2. Sempre a corde vuote, ma con una nota diversa a ogni pennata e ad ogni corda. Questo allo scopo di acquisire una certa familiarità nell'uso del plettro. Vi preghiamo altresì di ripetere gli esercizi fino a quando non riusciranno scorrevoli e chiari. Vi diamo il tempo. 1, 2, 3, 4. Giù, su, là. La, re, sol, si, re. Andate avanti. Lo stesso esercizio all'inverso. Si, sol, re. Ora, per cortesia, ripetete da capo. Ed ecco l'esercizio numero 3, che è impostato come il precedente. Abbiamo cercato di facilitarlo dandovi note di 2/4 ciascuna, per agevolarvi il salto da una corda all'altra. Come va? Siete stanchi? Su, reagiamo assieme. per verificare la vostra fedeltà alla regola delle preziose pennate. Ricordate? Pi greco in giù, V in su. Ed ecco il tempo. 1, 2, 3, 4. Giù, su, giù, su. Avanti, prego. Ripetete, prego. La musica è fatta di suoni e di pause, di forte e di piano, di bassi e di acuti, di lento e di svelto, anche di indifferenza e di passione. È così terminata la prima lezione. Per invogliarvi allo studio, nella piccola antologia di musiche per chitarra eseguite da Franco Cerri e Mario Gangi, vi offriamo Você e Eu, canzone brasiliana di Lobo e Lira. Thank you. Ed ora, se volete imparare a suonare la chitarra, non preoccupatevi più di tanto. Seguite le lezioni e abbiate cura del vostro strumento. Se poi ci fosse qualcuno che non è ancora convinto di essere entrato in un piacevolissimo giardino di suoni e di soddisfazioni... Se non vi interessa più la chitarra... potete sempre rivenderla. Regalarla a un amico. A un nemico. A un tale. E se proprio odiate tutto il genere umano e soffrite per il freddo della solitudine... poiché la chitarra è sempre costruita in buon legno stagionato... beh, potete scaldarvici con una